Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Chi più spende, meglio spende. Me l'hai tolta di bocca, guarda. Dottore Spizzi, sì. Facciamo un invito. Ma piace spendere, mica risparmiare. Manager no, no, eh. No, no, non ce la faccio. Diventiamo proprio imprenditori? Proviamoci, abbiamo un'idea brillante? Ma ce la facciamo venire. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, avrete capito molto bene sia dal nostro fuori onda che dalla canzone con la quale abbiamo iniziato oggi il nostro programma che torniamo a parlare di lavoro a cuore denari, ma parliamo in particolare di chi il lavoro non lo trova e quindi sceglie la strada del lavoro autonomo, e fra questi in molti aprono bottega, scelgono anche perché ne hanno certamente la vocazione e le capacità il lavoro artigianale, piccoli imprenditori che hanno le mani d'oro e quindi valorizzano al meglio questa attitudine, abilità manuali che oggi devono anche obbligatoriamente accompagnarsi a servizi tecnologici e moderni. Sempre di più si parla infatti di artigiani digitali. Ma quali sono i mestieri artigiani più diffusi? Quali sono in questo campo i mestieri e le professionalità più ricercate? Quali sono i passi da fare per fare in modo che la vocazione manuale diventi un vero e proprio lavoro? E dunque, per chi accarezza l'idea di aprire bottega, quali passi concreti deve fare? Ne parleremo oggi con tanti ospiti. Subito mano al microfono se volete intervenire in diretta. 800 24 00 24. Siamo affamati delle vostre esperienze che saranno sicuramente state di successo, ma per qualcuno magari la crisi avrà anche in qualche maniera condizionato anche l'andamento di queste piccole attività d'impresa. E allora anche la crisi in che modo vi ha fatto cambiare atteggiamento, che direzione nuova ha preso la vostra piccola società? Tra l'altro vi anticipo già che di lavoro si parlerà lunedì prossimo qui al Sole 24 Ore, 19 maggio, con l'evento Tutto Lavoro, il nuovo progetto Lavoro per la Ripresa. Ci sarà anche il ministro del Welfare Poletti. Ma andiamo agli ospiti di questa mattina. Walter Passerini, giornalista, responsabile delle pagine del Lavoro della Stampa, e da pochissimo, lo abbiamo già presentato qualche settimana fa, in libreria con La Guerra del Lavoro. Walter, buongiorno. Ciao, bentornato. Ciao Deborah, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Ma noi ti abbiamo chiamato anche perché tu in passato hai scritto un altro libro su quel sul tema di stamattina, Ricomincio da me. Dal lavoro dipendente al lavoro intraprendente. Molto bene. Saluto e ringrazio per essere con noi collegati telefonicamente Stefania Milo, presidente dei giovani della CNA, l'organizzazione appunto degli artigiani italiani. Milo, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno Walter. Buongiorno. Abbiamo fatto una piccola carramba questa mattina, vi sentite spesso, no. Giustamente, anche perché Walter sta promuovendo il suo libro naturalmente in tutta Italia, e anzi mi ha raccontato prima a microfoni spenti che ha avuto un incontro molto bello sabato al Salone del Libro di Torino con i ragazzi, con i giovani. Sì, 250 giovani dell'ultimo anno delle superiori e dei primissimi anni dell'università, a cui abbiamo invitato a dire che cosa pensate del lavoro, e ho notato da un lato una disagio sulle eccessive formule contrattuali esistenti per l'assunzione da lavoro dipendente, ma una buona propensione al lavoro indipendente. Quindi, come dire, fa sperare, ci vogliono dei servizi di accompagnamento per i giovani verso la strada del lavoro autonomo. E soprattutto poi cercheremo anche di capire quali mestieri sono destinati un po' all'estinzione, purtroppo dobbiamo dire, ma le cose vanno così, e quali invece sono i settori innovativi nei quali magari è il caso di cominciare a cimentarsi. Saluto anche Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia. Presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi, grazie per avermi invitato. Eccoci qua. E allora, naturalmente agli ascoltatori, oltre al numero verde, vedo già che stanno scalpitando, c'è anche l'altra possibilità per intervenire, che è quella di inviarci degli sms 349-238-6666, e naturalmente il primo che arriva guarda già e segnala già le difficoltà per chi vuole aprire piccole attività. Ci scrive Giulio, fate aprire partite IVA, poi ne riparliamo quando cominciamo a parlare, quando cominciamo a pagare il 65-70% di tasse. Adesso non so se l'imposizione fiscale sulle piccole imprese artigiane è in questa misura, so che però è molto alta, ma magari lo commenteremo nel corso della trasmissione. E allora cominciamo subito a fare un giro di tavolo con i nostri ospiti. Walter, ci scatti subito una piccola fotografia. Quando parliamo di lavori artigiani, in questo momento, 13 maggio 2014, a quali mestieri facciamo riferimento? Intanto facciamo riferimento soprattutto ai mestieri, ci vengono in mente i mestieri tradizionali, no? Per esempio il conduttore di gru, che è uno di questi, il venditore ambulante, l'armaiolo, l'orologiaio, queste professioni, diciamo, di tradizione. E l'Italia ha molto da dire, da fare ancora in questo settore. Però quello che è interessante notare è che ci sono due cose che stanno cambiando completamente l'artigianato. La prima è la propensione verso l'estero dell'artigiano, quindi è un artigiano che ha i piedi in un territorio ma ha l'occhio che guarda il mondo. E la seconda cosa è che per avere questa visione nuova, questa cultura anche nuova del nuovo artigiano, usa le tecnologie, quindi l'artigiano digitale come protagonista di un rinnovamento di questo settore. Abbiamo 1,5 milioni di imprese artigiane in questo momento in Italia complessivamente. I tassi di natalità certamente risentono anche delle chiusure, ma non drammatizzerei sulle chiusure, perché sulle piccole dimensioni la chiusura è quasi fisiologica. Il problema è che in Italia chiudere un'impresa piccola diventa uno stigma, diventa una croce che ti porti per tutta la vita. Negli Stati Uniti fallire e ricominciare vuol dire appunto che si ha la capacità, l'energia, la vitalità per poter riprendere. E le banche negli Stati Uniti danno credito a chi ricomincia anche dopo un fallimento. Presidente Massetti, in Italia è un po' più difficile, no? Che si verifichi questa circostanza. Condivide l'analisi che ha fatto Walter Passelini? Chi chiude una piccola impresa artigiana fa molta fatica a riprendere un'iniziativa analoga, a ripresentarsi in banca, a chiedere al direttore se gli dà di nuovo fiducia, oltre che magari ad un piccolo finanziamento. Insomma, ci dice un po' la sua su questo punto. Sì, sono d'accordo, però per chi chiude in Italia, per un artigiano che chiude, subentra un dramma familiare. Non è così semplice ed è una cosa così leggera, perché l'artigiano nella propria azienda ci mette tutto, la propria vita, ci mette le proprie risorse, coinvolge i familiari, per cui è un dramma, non è così semplice. Certo è che noi speriamo che le aziende non chiudano, nel senso, se in America hanno una seconda chance, in Italia forse non c'hanno nemmeno la prima, perché quando si parla di credito sappiamo come si comportano le banche italiane. Ci dice, Presidente, quali sono questi microimprenditori? Ci scatti la fotografia di Confartigianato, più uomini, più donne, in che regioni d'Italia sono particolarmente concentrati, in che professioni si cimentano di più? Guardi, sicuramente la Lombardia, il Veneto, ma ci mettiamo anche le Marche, sono le regioni con il più tasso alto di presenza di imprese artigiane piccole. Sul totale siamo il 97% di imprese presenti sul territorio italiano rispetto al totale delle imprese. Questo la dice lunga su quanto le partite IVA dei piccoli fanno la differenza. Mi piacerebbe dire, però, per tornare all'inizio della sua introduzione, che non tutti sono motivati da spirito imprenditoriale quelli che aprono oggi una partita IVA. Tanti sono dipendenti che sono stati espulsi dal mondo del lavoro e non gli rimane altro che aprire la partita IVA. Dall'altra parte ci sta chi invece apre un'attività perché ha lo spirito italiano, che è quello. Esatto, se è un ripiego è una cosa, se invece è la vocazione della propria vita, è evidente. Certo. Esatto, per cui bisogna fare un po' attenzione anche ai dati che passano alle Camere di Commercio. Sta di fatto che oltre ai tradizionali e le tradizionali attività ne nascono nuove. Prima si è toccato il discorso delle stampanti 3D, ma le stampanti 3D le hanno inventate gli artigiani. Le hanno inventate perché il mondo del lavoro sta cambiando e cresce la voglia della personalizzazione di qualsiasi prodotto, non più lavori a catena, ma l'utente vuole prodotti personalizzati, e le stampanti 3D le hanno inventate gli artigiani. Questa la dice lunga sugli artigiani digitali e sulla nuova figura degli artigiani. Ma io ci aggiungerei anche attività impensabili che però rientrano nella nostra categoria: i tatuatori, i disc jockey, sono tutte attività che vanno per la maggiore, cioè i servizi. soprattutto oggi vanno per ecco, quindi quando noi pensiamo all'artigiano non dobbiamo pensare solamente alla bottega, al calzolaio, a qualcuno che fa qualcosa di esclusivamente manuale, presidente Massetti, anche l'ambito dei servizi dà delle opportunità. Esatto, diciamo anche che i lavori tradizionali che qualcuno ha dimenticato, addirittura qualcuno pensa che non esistano più, invece sono richiesti. Quando si parla di calzolai, di sarti, cioè le cose su misura sono richiestissime. Io saluto l'amica Milo che io ho conosciuto a Shanghai durante certo, l'Expo. Vi siete dovuti conoscere a Shanghai, voi non in Italia naturalmente. E a Bologna, magari a metà strada a Bologna. Nel padiglione Italia erano esposti i tipici prodotti italiani, ma non so, penso alla liuteria cremonese, là c'era un padiglione quasi dedicato a loro, ma cioè, son quei lavori che si fanno in bottega, che si fanno su misura, ma che hanno anche un costo, ma un costo sociale, ma anche un costo finale che dà grandi soddisfazioni, per cui in 5 minuti non si può definire il mondo artigiano. Evidentemente, però qualche cosa di interessante si può raccontare. Sì, mi ha dato l'assist per la presidente dei giovani di CNA, Stefania Milo. Vi anticipo intanto già che ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando. Qualcuno che ci chiede suggerimenti pratici per aprire questa botteghina, come la chiama Patrizio, che ci racconta che la sua fidanzata vuole aprire una botteghina di restauro e decoupage e chiede: a 42 anni conviene, e ci mancherebbe, Patrizia, e poi cercheremo di capire cosa fare. Altri che invece sollevano la questione dell'ignoto, per esempio Francesco da Verona dice: ho sempre avuto la tentazione di aprire una mia piccola attività, non è la crisi che mi fa paura, ma le tasse che dovrei pagare, è un mondo ignoto che fa paura a tutti. Stefania Milo, le chiedo subito intanto un commento su questi due messaggi, poi andremo ai settori innovativi nei quali è bene indirizzare i giovani che vogliono aprire bottega, oggi ormai diciamo così. Milo. Certo, io ovviamente essendo di parte il lavoro autonomo e artigianale lo spingo sempre comunque, diciamo, perché è una scelta un po' di vita che io ho fatto, però adesso al di là di una scelta di cuore, diciamo che in questo momento di profonda difficoltà, rivalutarlo, perché secondo me si era proprio di rivalutare la professione in proprio, è sicuramente importante, perché ci sono molte persone che hanno delle passioni, ma anche passioni magari considerate hobby quasi, esatto, che possono essere trasformate in idea in business sostanzialmente, ma non si ha il coraggio, non si hanno le informazioni, perché oltretutto diventare imprenditori in questo paese, dove la scuola sicuramente, la formazione non aiuta molto a questa cultura imprenditoriale, non è proprio semplice, quindi uno ha grandi motivazioni di suo o in un contesto familiare in cui ha assaggiato un po' questo clima, altrimenti diventa veramente complicata. Fare l'imprenditore, l'artigiano, ma comunque il lavoro autonomo lo si può fare ovviamente a qualsiasi età, è chiaro che occorrono strumenti, occorre un'informazione di fondo, perché al di là della propria passione, che è sicuramente uno dei motori, una leva fondamentale, perché fare questo mestiere senza passione è praticamente impensabile, perché comunque anche l'aspetto da risvolto economico in questi tempi di crisi non è proprio così entusiasmante, diciamo. Poi non siamo qua a dire che si fa la fame, perché non sarebbe. Però diciamo non si fanno neanche le 8 ore di lavoro, magari, insomma, da lavoro dipendente. Certo, la passione è sicuramente un elemento fondamentale, e secondo me quando mi si dice perché scegliere il lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente, perché la passione che tu puoi mettere in pratica nel tuo lavoro credo che sia impagabile da un certo punto di vista. Però è chiaro che poi si fa sul serio, quindi occorrono informazioni corrette, quindi banalmente dal che tipo di società costituire, perché posso essere un lavoro autonomo ma posso scegliere anche di fare diverse formule anche nelle microaziende, a che tipo di prestiti fare bancari, quindi tra un scoperto di conto oppure un finanziamento, un leasing, cioè ci sono degli elementi che ci sono poi ovviamente consulenti e servizi apposta, però certo, minimo poi di propria informazione è giusto averla per avere una capacità poi di esatto, analisi, una visione insomma concreta di quello che ci si deve aspettare. Peraltro, sempre isolando per un attimo la situazione alla Lombardia, leggevo che la Camera di Commercio ha proprio fotografato la situazione di questa regione, che, lo anticipava prima Massetti, non è completamente positiva, anzi è negativa per le imprese artigiane in Lombardia. Due imprese artigiane chiudono ogni giorno, soprattutto nei settori dell'edilizia, nel manifatturiero e nei servizi, ma in positivo si registra una crescita nei settori informazione e comunicazione, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese. Poi analizzeremo con Massetti e Milo appunto questa tendenza, ma visto che nel settore dell'edilizia conosciamo bene le difficoltà che questo settore appunto sta vivendo in questo momento, vi faccio ascoltare cosa ha pensato di fare Gianmaria da Ferrara, che era, credo, un piccolo imprenditore in questo settore. Gianmaria, e lei che cosa ha fatto? Buongiorno. Buongiorno a tutti, innanzitutto mi sentite bene? Benissimo. Perché sono in un appartamento vuoto e di solito rimbombo. Non è un caso che lei si trovi lì in questo momento. Esatto. Per quale motivo, Gianmaria, ce lo racconti? Sì, lo racconto brevemente in modo da permettere ad altri di intervenire. Io ero un figlio del boom edilizio, quindi finisco gli studi. Non era conveniente lavorare in ufficio, ma era più conveniente imprendere, andare nei cantieri, perché le banche ti aiutavano, c'era l'anticipo fattura, mi ricordo, c'era l'80% di anticipo sulle idee, forse era un attimino esagerato. Poi a un certo punto tutto ci crolla addosso, siamo al collasso. Io ho due bimbi e devo dar da mangiare, devo permettergli di vivere una vita. È bello lo spot del CNA, cioè noi, i nostri figli devono stare meglio di noi. Comunque a un certo punto, anziché piangermi addosso, ho fatto anche quello, naturalmente. D'altronde, Gianmaria, i momenti di sconforto, ci mancherebbe pure che non ce ne possiamo concedere. Quindi, tante volte non sapevo come superato questo momentaccio, come ha ripreso le redini della sua vita? Mi guardo allo specchio e dico... Io so fare questo e ho cominciato ad inventarmi, facendo dei prototipi, dei complementi d'arredo, rivestendo dei complementi d'arredo già esistenti. A volte ero preso per pazzo nel paese perché mi rinchiudevo nel garage e sperimentavo materiali nuovi, tante volte li buttavo via, e finché ho dovuto avere un sito internet. Attraverso questo sito internet i miei prototipi stanno cominciando ad essere visibili a tutti, e cominciano gli ordini, comincio a lavorare, comincio a fare il lavoro che mi piace. Come si può riassumere l'artigiano? L'artigiano fa il lavoro che preferisce. L'artigiano è l'amante del proprio lavoro, l'arte. Certo. E quindi credeteci, portate avanti le vostre grazie qualità. Grazie Gianmaria, guardi, le farei vedere la faccia di Walter Passerini in questo momento, e che... ho le braccia aperte, perché l'accolgo, guardi, lei ha veramente centrato il problema, perché altrimenti noi facciamo una lista lunga di lamenti, no? Certamente io ho qua due foglietti, Deborah, in un secondo. Certo. Il primo è il mio giornale, che ieri giustamente diceva in 6 anni 600 nuove norme fiscali, addirittura solo fiscali, sulle imprese. E questo è un fronte, è una guerra questa, che rispetto a uno Stato che è appesantito da un debito pubblico incredibile e così via, è chiaro che l'elemento tasse è quello che frena molto. Però ho qua davanti a me un secondo foglietto che mi dice sostanzialmente che ci sono in Italia, per ragioni anagrafiche, 400.000 opportunità di lavoro nei settori artigianali, perché i 65enni che ne sono titolari stanno andando. Esatto. Diciamo così. Certo, un artigiano può anche lavorare fino a 90 anni, e molti lo fanno, tra l'altro, però un ricambio generazionale, ecco, è una delle sfide che noi abbiamo di fronte. Cioè, se noi andiamo a parlare a 250 ragazzi dicendo che l'artigianato è però difficile aprire, nessuno ci aiuta, e le tasse sono troppe, e le aziende che chiudono sono al 2 il giorno, eccetera, ma non diamo loro la speranza che possono anche diventare artigiani, non facciamo fino in fondo il nostro lavoro. Io credo che un patto generazionale fatto dagli artigiani oggi sia indispensabile quanto la guerra che si fa contro le troppe tasse. Benissimo. Benissimo, allora sul tema del patto generazionale riprenderemo il nostro cuore denari subito dopo i mercati, che adesso devo fare sempre io, perché questa mattina, come avete avuto modo di percepire, sono sola alla conduzione del programma. E quindi ancora, se volete anche intervenire su questo, se magari vostro papà vuole lasciarvi bottega ma voi siete un po' incerti su quello che volete fare, se non vi sentite completamente preparati ad assumervi la responsabilità di questa azienda, anche perché magari papà era molto bravo a fare un lavoro e voi non avete la stessa capacità, allora condividete con noi le vostre preoccupazioni. Qui, oltre ad una pacca sulla spalla, naturalmente speriamo anche di fornire indicazioni pratiche e concrete. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione. Adesso andiamo a sentire la borsa. cuore e denari. L'allarme arriva direttamente dalle organizzazioni artigiane, che sottolineano come nei prossimi 10 anni sono a rischio di estinzione molte professioni manuali dell'artigianato e dell'agricoltura, che potrebbero comportare la chiusura di molte aziende, con la perdita di almeno 385.000 posti di lavoro. Secondo l'elaborazione della CGIA di Mestre, le categorie più a rischio sono gli allevatori nel settore zootecnico, i braccianti agricoli e una serie di artigiani come pellettieri, valigiai, borsettieri, falegnami, ma anche autisti, collaboratori domestici e addetti alle pulizie. Il problema? Una mancata successione, che potrebbe diventare una grande occasione occupazionale, se opportunamente gestita. Per evitare il mancato cambio generazionale, è quindi necessario lanciare una campagna culturale che ridia peso e importanza al lavoro manuale. Ed è proprio il tema sul quale ci eravamo lasciati prima dell'interruzione per i mercati, il patto generazionale che sarebbe assolutamente vincente in un settore come questo, e ci sono già proprio molti ascoltatori che ci stanno chiedendo indicazioni pratiche su come rilevare magari l'attività del papà, come fa Massimo, che ci scrive a Cuore Denari alla nostra mail e ci racconta che con il suo fratello si trova proprio in una situazione di questo tipo. Suo fratello vorrebbe rilevare la ditta individuale del padre e di lei artigiano, tutelandosi tuttavia da possibili creditori personali, fideiussione bancaria prestata per un investimento sbagliato. Abbiamo pensato ad un'impresa familiare per poter continuare l'attività senza alcuna interruzione. Eventuali società le abbiamo escluse per evitare possibili futuri pignoramenti delle quote. Questa forse è una situazione un po' più complessa di quelle delle quali volevamo parlare, però magari chiediamo ai nostri interlocutori esperti del settore se la scelta che Massimo sta facendo è quella corretta. Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia, chiedo subito a lei un suggerimento per Massimo. Ma io non vorrei perdere il filo del ragionamento precedente, perché è importantissimo. Uno, per un giovane che si mette in proprio, vuol dire che il giovane deve saper fare un lavoro. Allora, ammettendo appunto che questa famiglia sia in questa condizione. Esatto. Due, se mi lascia fare questo brevissimo filo conduttore, certo, sennò si perde. Due, cosa hanno inculcato i genitori nella testa di questi giovani? Perché spesso i genitori hanno mandato i ragazzi a studiare senza dirgli che quello studio poi serviva per entrare in azienda e valorizzare l'azienda. Mentre invece tu vai a studiare, che non devi fare quello che ho fatto io, che ho sempre faticato, eccetera. Il terzo passaggio, che è fondamentale perché riguarda la politica, è il periodo dell'apprendistato. È un periodo di formazione e non di sfruttamento, come qualcuno continua a dire. Se manca il periodo dell'apprendistato, che vuol dire che un artigiano insegna a un giovane a fare il mestiere, altrimenti questo non imparerà mai il mestiere per poi mettersi in proprio. Ecco. Detto questo, cosa suggerisco a questi? Di buttare il cuore oltre l'ostacolo, di non aver paura nemmeno delle tasse, perché ci sono comunque le associazioni di categoria. Mi fa piacere lo speciale di ieri sulla Stampa di Torino, che sono dati che arrivano dall'Osservatorio di Confartigianato, che analizzano la situazione, ma dall'altra parte danno anche delle soluzioni, perché esistono, cioè le associazioni sono i sindacati dei lavoratori autonomi. Magari sindacato non è un termine che va per la maggiore, però di fatto è questo. All'interno delle organizzazioni ci sono uffici che danno un sacco di risposte agli imprenditori e ai giovani che vogliono mettersi in proprio. Dall'altra parte ci sta la battaglia sindacale nei confronti di uno Stato, e non è questione dei politici di adesso, c'è proprio una questione di mentalità. In Italia noi non siamo ritenuti una risorsa, noi siamo gli unici, visti i dati, visti la quantità, vista la capacità nostra di mantenere il personale all'interno delle aziende, siamo gli unici che potranno risollevare le sorti dell'Italia. E se non passa questo messaggio è inutile che parliamo di tutto, e ha ragione il giornalista Passerini nel dire piantiamola col piangerci addosso, perché è un messaggio negativo. Certo. Mi piacerebbe che in qualche fiction televisiva, magari pagata con i soldi pubblici, anche dalla TV pubblica, lo proponiamo alla RAI, il messaggio di qualche bravo idraulico, esatto, invece ha capito, cioè, del fare tutti questi film dove si parla solamente di medici piuttosto che di redattori di anche i giornalisti case, sono sempre gran protagonisti di gran romanzi e fiction. Esatto, ha ragione allora, ci sono delle storie bellissime all'interno dell'impresa imprese artigiane che varrebbe veramente la pena raccontare. Guardi, lei non sa quanto Walter Passerini in questo momento sta, come dire, virtualmente brindando le sue dichiarazioni perché riconosce un cambio di approccio. Ma certo, Deborah, è proprio questo il punto, perché non andiamo da nessuna parte soltanto con il lamento. Allora il problema è, guarda, io posso raccontare 30 secondi? Sì. Ci devi anche raccontare di nuovo storia. Delle pipe, esatto, sì, no, ma a te le racconto senz'altro, abbiamo tempo. Però guarda, il più grande sociologo economico del mondo, che si chiama Richard Sennett, qualche anno fa ha scritto un libro bellissimo. Che si... Ecco, quello prima però, Massetti, quello prima si chiamava L'uomo flessibile. Tutti i titoli per chi non li conosce. L'uomo flessibile. L'uomo flessibile era un po' la metafora del lavoro flessibile, precario e così via. Metteva in luce la bellezza, ma anche la negatività di questo mondo. Poi ci ha ripensato e ha scritto quel bellissimo libro a cui lei si riferisce, che è L'uomo artigiano. Esatto. Che è strepitoso, Massetti, se lo ricorda. È da leggere nelle scuole. Ma sì, ma adesso diciamo all'editore di Repubblica. Ha scritto un terzo libro ancora per capire come il pensiero, la concezione deve passare dalla flessibilità all'artigianato, ma c'è un terzo libro che si chiama Insieme. Insieme ce la possiamo fare, le vie della collaborazione, della cooperazione, cioè le cooperative degli artigiani, le agenzie degli artigiani che si mettono insieme vanno in questa direzione. Ci sono tra l'altro proprio delle domande di alcuni ascoltatori su questo aspetto che chiariremo tra un attimo. Stefania Mino, non mi sono dimenticata di lei, adesso ritorno a Cremona se lei è lì stamattina. Mattina, o a meno che non sia in qualche altra città d'Italia, a parlare con i giovani artigiani, le sottopongo due casi, uno molto interessante, uno un po' più problematico. Andiamo prima a Padova, dove Flavia ci racconta cosa si è inventato un suo amico. Buongiorno Flavia. Buongiorno Deborah. E io volevo parlare appunto di questo ragazzo, si chiama Alessandro, e lui ha lasciato il suo lavoro perché aveva cominciato a fare carrellini per animali disabili, tutti i tipi di animali. E all'inizio lo faceva come volontariato, adesso invece lo fa proprio come lavoro. E ha una richiesta infinita, pensa che ne ha fatto uno per una nutria, uno per un riccio, naturalmente cani, gatti, asinelli, ogni animale disabile lui li fa carrellino su misura in due giorni. Incredibile. E penso che sia una bella cosa. Certo, altro poi che nicchia, alla fine ecco, poi con il... Tra l'altro come comunica all'esterno la sua attività? Si è fatto il sito internet, perché qua magari funziona molto bene il passaporto. Esatto, si chiama Carrellini del Mago, che andiamo subito a trovare per tutti Carrellini, naturalmente, gli amanti degli animali. Sito internet, e proprio ha una richiesta davvero incredibile. E certo, di lavori, Flavia, ed è una bella cosa, volevo dirlo. Grazie, ha fatto bene, ce lo saluti tanto naturalmente, e in bocca al lupo a questo amico che si è... Grazie Flavia. Invece vorrei andare a Vito da Palermo, che ha molta difficoltà ad avviare la sua impresa artigiana. Vito, buongiorno. Intanto, in quale settore vorrebbe cimentarsi? Sì, buongiorno. Intanto buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. La stessa è passa la pena. Allora, io all'improvviso lo faccio breve, non per piangermi addosso, assolutamente. Chiamo da Palermo. Allora, non so se la mia idea ricade proprio nell'artigianato puro. Io a 40 anni mi ritrovo con due figli da sfamare, perché ho perso il lavoro, lavoravo per un ente pubblico qui a Palermo. E da tempo la mia passione sono le conserve. Le conserve? Dei pomodori, in particolare. Guardi, sapesse quanto sono anche la mia passione, Vito. Però mi sono rivolto, siccome ho pochi fondi a mia disposizione per mettere in campo questa, questa attività, e mi sono rivolto a Sviluppo Italia, qui da noi, insomma, ma ho trovato le porte chiuse, mille problemi. Per avere anche solo avere le informazioni come praticamente le varie autorizzazioni che occorrono, sì, che magari nell'alimentare sono un po' più complesse e più delicate. Esatto. Vito, e io non lo metto in dubbio, ma io voglio affrontarle le problematiche, dico, non è che voglio aprire in regola, non voglio nessun sotterfugio, però voglio capire, allora devi fare questo, no guarda lascia perdere, non ti conviene. Vito, si fermi lì. Guardi, adesso devo andare in pubblicità, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, la sua storia abbiamo capita perfettamente, quindi tutto questo ostruzionismo che trova anche sulla sua strada non è comprensibile, anche perché mi pare che la sua idea sia in un settore molto tradizionale, quindi non si capisce per quale motivo la debbano scoraggiare in questa maniera. Se addirittura una conserva non si riesce a vendere più del carrellino per l'animale disabile, mi viene veramente un po' da sorridere. Insomma, Vito, adesso ne parliamo, tra poco. Cuore e denari. Ero l'ultimo degli giorni e nessuno meglio di me. Hai visto come così abbiamo anche... C'è un inno. Ma ti vedo, guarda che te, se sei entusiasta. Fantastico, fantastico. Allora, il caso del nostro Vito da Palermo. Rimasto disoccupato, 40 anni, con due bambini, che cosa faccio? Non ho moltissimi soldi, voglio cimentarmi nella produzione di conserve, carciofini sott'olio o altro, sott'aceto, non so bene che cosa, e noi così stavamo anche considerando che è lodevole questo entusiasmo del nostro ascoltatore, che invece si sta scontrando un po' con chi vuole scoraggiarlo, la burocrazia. Un commento con Walter magari sul fatto che forse in Sicilia non è il miglior settore. Beh, perché tutti fanno da sé. Intanto, Deborah, Sviluppo Italia non è l'interlocutore, perché Sviluppo Italia si occupa di grandi taglie, non di piccole taglie, quindi. E l'altra cosa è invece che è difficile avere un mercato di consumo palermitano in una città dove tutti fanno le conserve o comunque tanti fanno le... Allora il problema è guardare alto, pensare di vendere queste cose a nord, magari in Italia certo, ma anche nel mondo. Cioè bisogna avere una vetrina, un e-commerce. Internet può aiutare, ovviamente i prodotti devono essere a prova di bomba, i prodotti devono essere di livello superiore alla media, quindi un brand, la creazione di un marchio di questo prodotto, ma pensare a, tenendo i piedi nel locale, il mercato non può essere locale, deve essere più globale, certo. Nazionale o addirittura internazionale. Allora Stefania Milo, vengo da lei, se lei si trovasse in questo momento a Palermo, il nostro Vito venisse in uno sportello della CNA nel appunto capoluogo siciliano, che cosa gli suggerirebbe di fare, a parte ribadire un po' i concetti del tutto condivisibili di Walter Passerini? Ma sicuramente aiutarlo in quella che è poi la parte, anche se vogliamo, procedura burocratica. Di le autorizzazioni sanitarie per l'alimentare sono una bella gatta da pelare. L'alimentare è un settore molto particolare, soprattutto anche sulla parte di corsi di formazione, aggiornamenti vari, HACCP e quant'altro, perché una volta fatti poi comunque vanno tenuti aggiornati e monitorati, e tutto un servizio che comunque le associazioni di categoria, non solo CNA ovviamente, fanno e sono in grado di a supportarti in questo tipo di attività. Sicuramente anche metterti a conoscenza di quelli che possono essere bandi o finanziamenti europei, perché sostanzialmente ormai si va sempre più in quella direzione, che possono essere legati a quel tipo di attività, ma anche ad uno startup di impresa, perché molti finanziamenti oggi si stanno fortunatamente occupando di proprio dello startup, a prescindere dall'età anagrafica dell'imprenditore, certo. Quindi non è solo esclusivo appannaggio di giovani. No, oggi non si può proprio più fare questa distinzione, evidentemente. Esatto, e anche tutto un supporto per quanto riguarda, come diceva Walter poco fa, la parte di web. Stiamo parlando di un prodotto made in Italy, perché comunque siamo proprio un prodotto alimentare made in Italy, quindi nel mondo ha già un suo valore, un suo marchio, quindi perché non cavalcare, ma non nel senso di cavalcare, ma di cavalcare nel senso corretto, diciamo, ecco, non inflazionato, di usare proprio questo brand che noi abbiamo nel mondo, e ovviamente valorizzare il proprio brand, ma partendo dal presupposto che il prodotto sia un prodotto di alta qualità, perché comunque deve essere un prodotto che si differenzia da quello che ha la grande distribuzione. Tale da giustificare anche magari un bel prezzo e quindi che ci possa anche sopravvivere. Soprattutto anche raccontare il prodotto, cosa che funziona molto oggi e soprattutto online, è raccontare la storia di questo prodotto, quindi partendo da quelle che sono le materie prime, perché le persone vogliono sapere, vogliono documentarsi, vogliono capire cosa mangiano, da dove proviene quel determinato prodotto. E gioco forza, voglio dire, parte da una terra, l'Italia da una parte e il sud dall'altra, sicuramente hanno dei valori aggiunti rispetto ad attività analoghe che possono essere aperte in altre zone d'Italia o anche all'estero. Mm-hmm. Quindi sicuramente molto web. È chiaro che tutto ciò, come ritorno al discorso ancora di prima, vuol dire formazione anche per quanto riguarda l'imprenditore, quindi al di là della passione, al di là di saper fare magari bene la conserva, anche una formazione sulla gestione. Milo, ci raccomandi ai suoi colleghi di Palermo il nostro Vito, in modo tale che possa andare, essere accolto e avere un ABC piuttosto chiaro di cosa deve fare naturalmente per coronare questo suo sogno. Walter, Deborah, scusami, ci sono dei finanziamenti in Sicilia per l'autoimpresa. Ottimo. Quindi anche l'Agenzia Regionale del Lavoro di Palermo, che ha sede a Palermo, può essere una fonte informativa. Non solo, ma è partito da questa mattina un servizio gratuito delle Camere di Commercio. Ottimo. Adesso non ricordo esattamente il sito, ma comunque è www.filo.org. unioncamere.gov.it, sì, dovrebbe essere questo, che è partito, che è un servizio nazionale, cioè una rete nazionale di sportelli delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, si chiamano così le camere di commercio, che offre a chi vuole aprire un'impresa un servizio totalmente gratuito di accompagnamento, intanto di analisi del business plan, perché se non si fa il business plan l'azienda rischia di essere chiusa nel giro di 6 mesi, poi se devo avere appunto problematiche tecniche, problematiche fiscali e così via, insomma, per aiutare chi ha un'idea a realizzarla, a farla diventare un progetto di impresa, può oggi contare anche su uno strumento, oltre che Confartigianato, oltre CNA e così via, anche su questa rete nazionale delle camere di commercio. Volevo poi parlare anche dei settori innovativi, dove esistono degli interessanti spazi di sviluppo, c'è la green economy, ci sono le smart cities, tradurremo per i nostri ascoltatori in italiano questi termini, però si è inventato invece una sorta di secondo lavoro in un settore molto tradizionale, Daniele da Chieti, che lui dice: io lavoro, ma sai che ti dico, che mi voglio proteggere ulteriormente qua, non sapendo come potrebbero andare le cose. Daniele, che cosa si è inventato? Buongiorno. Buongiorno. Mi sono inventato che la sera dopo il lavoro, dopo le 17, apro il negozio, la bottega da calzolaio. Ah. Sì, questo me l'ha insegnato mio fratello, mi ha insegnato questo, diciamo, questo vecchio mestiere. Perché non lo fanno più in tanti, giusto? Tra l'altro poi c'è anche... No, mi sono guardato un po' intorno, ho visto che nessuno, non c'erano più chi faceva questo lavoro. Ed è contento, Daniele? Le dà soddisfazione questa seconda attività della giornata? Sì, a volte è dura, però sono soddisfatto, mi piace. Ho integrato pure mia moglie il giorno ci sta lei, ecco. Daniele, la ringrazio per lo spirito di iniziativa e prima di salutarci metto in cascina, fieno in cascina si dice, sì, quindi sì, metto, sì. Oppure metto in cantina anche la domanda di Rodolfo da Prato, perché da questo argomento partiamo poi nella seconda parte della trasmissione. Rodolfo, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, Deborah, e a tutti i suoi ospiti. Ci dica. Ecco, io volevo sottolineare per quanto riguarda i piccoli imprenditori artigiani l'opportunità che può dare la cooperativa, che adesso la legge amplia da un numero di 3 di addetti fino a 9, ed essendo le cooperative adatte secondo me a un lavoro artigiano, in quanto i lavoratori artigiani sono di solito, ecco, come abbiamo sentito alla radio, piccole tradizioni familiari e così via, quindi secondo me si adatta bene, certo. Anche quindi mettere, non lo so, il calzolaio insieme al piccolo sarto, al riparatore di altro, Walter. Sì, anche, ecco, i tre minimi componenti possono essere anche a livello, certo, familiare. Certo. Ah, certo. Tra l'altro, proprio su queste cose che dice il nostro ascoltatore, si stanno rivelando ormai vincenti queste cooperative multiservizi, si chiamano, sì. No? Possono essere agenzie o cooperative, le forme giuridiche poi si possono trovare, dove insieme c'è l'impiantista, l'idraulico, l'elettricista, il falegname, l'aggiustatore, il riparatore, insomma, mettono insieme 6 o 7 professioni, mestieri artigianali e creano un unico centro. Certo, non a cui è le un'impresa, persone... non no, necessariamente no, un'impresa no, di soci, no, ma un gruppo di artigiani. È un gruppo di artigiani che ha scelto la terza via di Sennett, uomo flessibile, uomo artigiano, insieme ce la possiamo fare. E allora noi ce la possiamo fare anche a dare la linea al giornale radio. Adesso ritorniamo dopo con Stefania Mile, Eugenio Massetti e Walter Passerini. Rimanete con noi. Cuore e denari. You can't talk to me like that, boss. I don't care who you are. If you don't wanna have to hang your own drywall, don't push me too far. Boomtown work ain't hard to come by. Boomtown workers are. You might be the one running the show. Sentendola ancora a lungo questa canzone, perché volevo proprio che il cantante arrivasse a dire I was looking for a job, Walter. Sì, ma non sapevo che a Radio 24 ci fosse così tanta bella musica. Noi abbiamo degli assistenti eccezionali che ogni giorno fanno delle grandi ricerche per trovare l'accompagnamento musicale adeguato ai nostri argomenti, perché chiaramente se temi un po' pesantucci come la perdita del lavoro e la necessità di trovarne un altro si accompagnano con un po' di leggerezza, è meglio, no? Abbiamo bisogno di nuove colonne sonore quando si parla di lavoro. che vuol dire anche metaforicamente che dobbiamo proprio cambiare atteggiamento, essere più ottimisti, certo, più aperti e meno lamentosi. E devo dirti che a fronte di tanti ascoltatori che ritengono che questa mattina abbiamo un approccio sbagliato ad affrontare l'argomento, che siamo troppo ottimisti, che non abbiamo un quadro chiaro delle realtà, invece in tanti ci stanno raccontando la loro esperienza di come si sono rimessi in piedi con grande coraggio e come si sono inventati, tra virgolette, nuove professioni, perché poi non è che sono mica i marziani come quelli che commentavamo prima con Walter Passerini, che ha citato ieri il Papa, anche a loro darei la comunione. No, qua stiamo parlando di persone che invece hanno intercettato opportunità in cui cimentarsi, naturalmente anche con successo. Prima di sentire Paolo da Cremona e Paola da Roma, vorrei ritornare per un attimo ad Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia, che voleva darci altri input sulla questione del mettersi insieme delle cooperative di artigiani. Presidente. Sì, per ricollegarmi alla richiesta di Vito di Palermo e al discorso che si faceva come opportunità, per non lamentarci all'interno delle associazioni di categoria, Confartigianato naturalmente, che rappresento, esistono da tantissimi anni le cooperative di garanzia artigiana che praticamente danno e garantiscono in prima persona per gli artigiani che vanno in banca a chiedere soldi per cominciare un'attività oppure per ristrutturare un'attività. Hanno un ruolo importantissimo all'interno del mondo del lavoro artigiano, cioè i famosi confidi. Sì. La maggior parte li confondono con le cooperative, che vuol dire mettersi insieme un po' di persone per fare. No, queste sono le cooperative di garanzia artigiana, sono i confidi che garantiscono per gli artigiani che hanno qualche difficoltà logicamente a reperire risorse e credito nei confronti delle banche. Chi vuole aprire un'attività può rivolgersi a questi uffici che gli daranno qualsiasi tipo di suggerimento e di input per andare poi nella banca, perché poi sono le banche che erogano il credito. Ma le garanzie sono importanti, perché senza garanzia la banca non dà il credito, non dà il prestito. Per cui sottolineerei la presenza importante di questi organi. Luca da Rimini scrive: il vero problema non sono le tasse, ma lo spirito di sacrificio che in molti giovani manca e nell'artigianato invece ne serve proprio tanto. Anna da Milano ci racconta che è un over 55 professionista nel reparto creativo pubblicitario di un'azienda rimasta senza lavoro, ha aperto un piccolo negozio di alimenti bio con grande passione e competenza. Chiuso ad aprile, dopo 3 anni di sofferenze economiche e bancarie, il problema qua per Anna è chi uccide i piccoli sono le grandi catene anche nel bio, per cui evidentemente Anna qua bisognava proprio trovare la nicchia della nicchia anche nell'alimentazione. Paolo da Cremona, ci racconti un po' la sua idea, buongiorno. Buongiorno a tutti. E soprattutto se ha avuto successo, perché poi qua di idee magari ne abbiamo tante, il tema è farle diventare idee di successo. Buongiorno a tutti, sì. Sono Paolo di Cremona e insieme a un altro ragazzo ci siamo inventati questa attività Custom Barrel. Recuperiamo i fusti dell'olio e praticamente creiamo dei articoli unici di design ed arredo, quali poltrone, tavolini, eccetera. E chi sono i vostri clienti, Paolo? I nostri clienti sono per lo più privati, bar locali che arredano lo spazio, negozi, arrediamo vetrine, cose del genere comunque. Paolo, è contento? Le cose vanno bene? Quanti sacrifici? Vanno abbastanza bene, sacrifici tanti, soprattutto perché si lavora di notte dopo l'orario di lavoro e quindi si prova. In che senso dopo l'orario di lavoro? Perché lei ne ha già un... Non è un lavoro primario, si cerca di far diventare lavoro anche questo, chiaramente. Certo, Paolo, in bocca al lupo per tutto e grazie per la sua testimonianza, complimenti per la vostra inventiva. Il tema degli adempimenti, peraltro, Walter Passerini, quanti ne hanno gli artigiani? Beh, ne hanno, possiamo dire, una sessantina almeno. Cioè il problema è che hanno tanti adempimenti e su soggetti diversi, cioè addirittura in un'impresa possono arrivare dai 10 ai 15 tipi di ufficio, no, che ti possono mettere in difficoltà. Quindi la semplificazione, la trasparenza, l'abbassamento della burocrazia, ma la semplificazione, quindi avere uno sportello unico per aprire un'impresa, un unico ente che ha un rapporto con l'imprenditore, perché altrimenti uno impazzisce, insomma, ogni giorno anziché lavorare deve stare dietro a tutte queste cose. Quindi è giusto lottare contro la burocrazia, ma con la stessa energia con cui lottiamo contro la burocrazia bisognerebbe offrire dei servizi per aiutare le persone a mettersi in proprio. Dico solo che non abbiamo parlato molto di una cosa che si chiama formazione, ne ha parlato un po' Stefania Milo prima, perché quando uno dice voglio aprire un negozio di... Ma allora, intanto bisogna vedere che competenza hai per aprire un negozio di, no? Di, che ne so io, di piante ornamentali. Ma sei proprio capace di occuparti di piante ornamentali? Vieni da una famiglia che si occupava di piante ornamentali, hai studiato nel campo delle piante ornamentali, poi il mercato, ecco. Quindi ci vogliono davvero delle competenze, non è che uno ha un'idea domani mattina la realizza, no. Daniela da Roma, le assicuro che Walter non aveva visto che sarebbe arrivata la sua telefonata. Stavo ascoltando, ho detto sembra fatto apposta. Perché? Perché io sono un'appassionata di piante e proprio l'ultima cosa che lei ha detto, cioè il fatto della competenza, mi ha sempre un po' bloccato, perché sono anni che io mi ci dedico sia praticamente che teoricamente, leggendo libri, facendo qualche corso, e però mi sono sempre frenata proprio per il fatto che amare, cioè avere una passione, un sogno, non significa poi avere la competenza di poter mettere in atto quello che potrebbe diventare quindi, poi una professione. Al momento che cos'è che la frena prima di tutto? Allora, innanzitutto anche un po' l'età, perché ho 56 anni. Vabbè, però... questa la faccio finta di non averla sentita, Daniela, mi raccomando, non dica più così. Poi? Sì, e poi il discorso anche che non so un po' da quale parte iniziare, perché io sono un'appassionata, ma non sono una persona che ricerca il lucro, cioè nel senso, io non voglio aprire un vivaio per fare i soldi, per dire. Cioè io vorrei mettere la mia passione al servizio di persone che magari, che ne so, hanno una pianta. Daniela, se lei fosse a Milano, io la chiamerei per il mio balcone, che non ha nulla, e da qualche tempo sto pensando a che cosa fare, perché ci piomba il sole tutto il giorno, quindi mi serve una consulenza adeguata. Può cominciare da lì, Walter, un piccolo sito internet dove dire mi metto a disposizione dei privati, non sapete da che parte cominciare per arricchire il vostro balcone, il vostro terrazzo, vi aiuto. E poi un buon corso professionale, magari cominciando certamente con la pratica, andando nei vivai degli altri, non dico rubarli idee, ma vedere come lavorano, e dopodiché rivolgendosi alle associazioni capire dove si svolge un corso professionale che può essere utile. Per esempio, per molte donne, no, che hanno figli eccetera eccetera, sta andando molto bene l'asilo di condominio, per esempio, che è una classica attività di servizio. Perfetto. Ecco, lì però è chiaro che io conosco una signora che l'ha fatto, che è di Roma, e lei ovviamente, insomma, è una psicologa, quindi ha comunque una base di competenza anche per tenere i 5 bambini degli altri. Anche perché con quello che leggiamo su come su cosa succede all'interno di certi asili, chiaramente per i nostri bambini abbiamo bisogno di tutte le tutele possibili. Volevo un altro commento da Stefania Milo, poi vi devo presentare un altro ospite, fra un po' rullino i tamburi perché è una sorpresa. Stefania Milo, le chiedo anche se vuole commentare un po' la nostra signora che ha la passione per le piante, che suggerimenti le possiamo dare, ma le chiedo anche quali settori nuovi dobbiamo suggerire ai giovani che ci stanno ascoltando, dove magari sarebbe bene che cominci a studiare le modalità per costruirsi delle competenze. Leggo di green economy, smart city. Che cosa sono questi settori? Dove c'è bisogno di nuove professionalità? Ma io direi che nuove professionalità c'è un po' bisogno in tutti i settori, o meglio, ci sono dei settori, parlavamo prima anche dei mestieri tradizionali, in cui c'è bisogno di un grandissimo innesto, per esempio, di innovazione tecnologica per poter svolgere questi mestieri in maniera congrua al momento, e soprattutto anche per svecchiare queste professioni che un po' nell'immaginario collettivo sono viste appunto come l'artigiano un po' sfigato, chiuso nella propria botteguccia. Poteva essere più chiara. Non poteva essere più chiara. Senza una particolare, anche se vogliamo, preparazione non tecnica, ma magari una preparazione di cultura generale, chiamiamola così. In realtà invece queste professioni, si parlava prima del calzolaio, parlo anche dell'idraulico, parlo del muratore, parlo dell'imbianchino, che con un innesto tecnologico nel materiali, nel modo di approccio della commerciale anche, sicuramente potrebbero essere svecchiate. Sicuramente tutto il comparto dell'ICT, ovviamente si diceva prima anche nei dati di Lombardia, sostanzialmente sono tutte professioni ovviamente nuove da un certo punto di vista, ma soprattutto anche funzionali a tutta una serie di mestieri, green economy sicuramente, perché comunque la valorizzazione e la tutela del patrimonio, di quello che è tutto l'aspetto bio, io eco, diciamo, fondamentale, quindi anche tutte le applicazioni sul discorso smart city e quant'altro. E poi io ci metto il turismo, guardatevi attorno, se vivete in un bel posto cercate di fare in modo di inventarvi qualcosa che attiri le persone che vengono a trovare le nostre località, che sono meravigliose, per cui accogliamole al meglio. Walter, turismo agroalimentare soprattutto, sì. E anche questo connubio turismo agroalimentare, perché anche la parte di turismo si sta molto evolvendo, quindi è più un turismo che vuole con mano toccare, fare delle cose, quindi sì. Non è più un turismo. Ma Stefania, noi abbiamo per esempio, li cito rapidissimamente, turismo, cultura, beni culturali, alimentazione e cibo, è un grande settore, di localizzazione anche, di cose importanti che ci sono nei distretti, nei territori, eccetera. Mode e design è un altro settore pieno di artigiani, tra l'altro, sui prototipi lì non si scappa se non si è artigiani. Web, tutta l'area web, tutta l'area green, tutta. Il nuovo welfare, quindi le attività di cura della famiglia, della persona. Bravissimo. Eccetera. Un penultimo, costruzioni, ma non l'ex novo, il riuso, la ristrutturazione e infine l'industria. L'industria ha intorno reti di artigiani che fanno i prototipi e questo è importantissimo. E muoviti, e allora muoviti, comincia a muoverti, muoviti. Sì, è un po' la raccomandazione che abbiamo fatto a tutti questa mattina, certo facile a dirsi, poi chiaramente c'è chi si deve muovere e magari un pochino più in difficoltà lo è. A proposito di imprenditore, se ci pensate, ciascuno di noi lo è, in un settore della propria vita, chi vuole mantenersi in forma sa che deve curare la propria alimentazione, praticare regolarmente attività fisica. In tempi di crisi molti italiani hanno tagliato la voce palestra dal proprio budget e si sono attrezzati scegliendo di praticare sport all'aria aperta, penso ai runner, ai ciclisti, ma la formula vincente di un buon allenamento deve calibrare attività aerobica a quella anaerobica. Detto in altri termini, non si può solo correre o camminare, bisogna fare anche lavoro di tonificazione generale. Ecco perché sono sempre di più le persone che sono a casa e fanno esercizi di potenziamento muscolare. Se sino ad ora li avete trascurati con la prova costume, è ora di invece pensarci. Allora, buongiorno al dottor Simone Diamantini, preparatore atletico che ci rimetterà in sesto nel giro di 3 minuti. Buongiorno dottore, grazie. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, andiamo subito al dunque, vediamo di cosa potremo aver bisogno per poterci allenare tranquillamente a casa, magari in salotto, in camera da letto. Quali sono gli attrezzi base? Occhio al portafoglio, dottore, sa che io sono una donna di denari, per cui non posso mai dimenticarmi di ricordarvi questo aspetto. Ci dia subito un primo suggerimento. Certo, allora, prima di tutto sicuramente adesso col momento di crisi, ma anche con la riduzione del tempo reale che uno ha a disposizione, poter lavorare a casa è una cosa assolutamente possibile e performante anche. Comprare un materassino semplicissimo, morbido, dove poter adagiarsi per poter fare gli esercizi a terra, anche 2 bottiglie d'acqua semplicissime, che poi magari all'inizio possono essere da mezzo litro, poi da un litro e poi da un litro e mezzo, che possono essere usate prevalentemente per l'uso degli arti superiori, quindi spalle, bicipiti, tricipiti, o anche facendo degli affondi e quindi come sovraccarico. E poi quella che io ritengo uno strumento molto utile, la classica fitball o swiss ball, che è una palla di gomma di un diametro che può essere da 45 a 65 centimetri e che viene gonfiata con una pompetta che viene data in dotazione. Costa veramente poco, perché 10 euro credo un costo, un investimento che possiamo fare, certo, e che offre un'infinità di esercizi che poi, se andiamo su YouTube piuttosto che sui siti dedicati e mettiamo fitball esercizi, vi si apre un mondo, se ne possono fare veramente di tutti i tipi, su tutte le articolazioni e su tutti, certo, i muscoli. Ci sono poi anche gli elastici. Certo, gli elastici o i TheraBand, che sono degli strumenti utilissimi, a seconda del colore offrono un'intensità e una tensionabilità maggiore, li possiamo usare sia unendoli tra di loro e quindi magari, non so, allargando e chiudendo le gambe, facendo lavorare i glutei piuttosto che anche le braccia e i pettorali, oppure li possiamo legare a un calorifero e lavorare con gli extra o gli intrarotatori della spalla o con gli adduttori e gli adduttori, quindi con i glutei esterni, per poter cercare di tonificare la struttura e poi far sì che l'allenamento aerobico che facciamo fuori sia più efficace. Benissimo, noi valorizziamo lo spirito di iniziativa in ogni campo, per cui anche gli irriducibili del, come dire, della pigrizia questa mattina hanno avuto tutte le idee necessarie per potersi cominciare a muovere ed essere un po' artigiani della propria forma fisica. Grazie dottor Diamantini, buona grazie giornata, grazie molte. C'era anche la testimonianza di Paola da Roma, che sintetizzo io, ha il progetto di lavorare per la vendita online di bomboniere, deve ancora partire, sta progettando come fare. Paola, Confartigianato e CNA sul territorio ci sono, magari vada alla Camera di Commercio, gli sportelli ci mancano, al limite si legga il libro di Walter Passerini, La guerra del lavoro, perché anche qui trova tante indicazioni utili. Grazie Walter. Grazie a voi. Grazie a Stefania Milo, presidente dei giovani della CNA, ed Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia. Noi torniamo, anzi anche domani sono da sola, io torno domani, vi auguro una buona giornata. Cuore e denari.